Claudia Maigret, Clementino, e già mi sento in vacanza. Questa estate lontana, troppe macchine in città, questo tempo che lentamente se ne va. Il semaforo è rosso già da una vita fa. Vedo un uomo che in bici allegro se ne va. E mi sembra bellissimo vedere che ha un profumo di mare dentro di sé. Lui viaggia libero e dietro lascia una scia, un'autostrada tra il Messico e casa sua. E già mi sento in vacanza, col sole sulla mia faccia. Anche in città mi sento libera di andare in bici a Santa Fe. E già mi sento in vacanza, la spiaggia è dentro la testa. E con la musica che viaggia, amore, amore, amore, dove sei? Il semaforo è verde, si era spento il motore. Mi risvegliano i rumori di chi bussa e va. E ritorno a guidare, direzione stazione. In questa strada alberata che mi fa arrivare in questo posto bellissimo chiamato mondo, che in ogni parte di cielo racchiude un sogno. I prati verdi ed il mare che è sempre uguale, arriva fino in America per tornare. E già mi sento in vacanza, col sole sulla mia faccia. Anche in città mi sento libera di andare, andiamo dove vuoi. E già mi sento in vacanza, la spiaggia è dentro la testa. E con la musica che viaggia, amore, amore, amore, dove sei? Questo battito che sale lento, questo sole dentro sta arrivando. Dammi la mano che mi sta avvolgendo, tutto intorno mare, sabbia e vento. Da Palma de Mallorca fino al Messico, da Napoli al Salento, vado al massimo per cercarti, poi trovarti e baciarti. Adesso non alzarti. Ogni angolo di questo mondo ha una storia ed uno sfondo intorno, ma mi sento ancora a casa mia qua, anche quando scappo e vado via fra. E la stanza stringe le pareti intorno, il mio cuscino sei tu e adesso dormo. Dammi un beat e ti parte la danza, perché già io mi sento in vacanza. Col sole sulla mia faccia, anche in città.